la compagna vostra, ch'oggio perduto suona fantasia. Che pensa sempre che tutta vita mia in te volesse dicere, ma non ci ho sazio di. Come on.